Marta, perché? Abbiamo la tua donna, proletaria di merda! Deve essere carburatore. Dice. Guarda. Aiuto, aiuto! Fermo! Fermati, figliato! Fermo! Aiuto! Fermati, Marta! Marta! Su, scema, svegliati! Alzati! Svegliati, porto da bambina! Grazie! Non me la sentivo più di lavorare dopo quello che è successo. E così ho chiesto 6 mesi di aspettare. E adesso cosa vuol dire? Vado a Milano, la mia vita. Non pensi che possa stare un po' lontano? Ci farà bene? Che pensi? Dobbiamo mettere un po' d'ordine nel nostro rapporto, Leonardo. Quando parti? Sabato. Va bene. Ti accompagno a casa. Sì, sono proprio loro. Ne sono sicuro. Il terzo è chiamavano al vino. Ma sì, lo so che dovevo dirtelo prima, ma cerca di capire. Io volevo soltanto evitarti. E allora e piuttosto sapresti riconoscere il posto che mi hanno portato. Era un grande palco di autodemolizione, fuori città. Senti, Leo, io non credo che tornerò a Roma. Almeno per il momento. Penso che sia meglio. Anna.